24 mattino di Alessandro Milan. 7:20 minuti, eccoci qua anche oggi in diretta 24 mattino e radio24.it. Siete in viaggio, siete in macchina, chi lo sa da dove ci ascoltate. Intanto il tema del nostro sondaggio: gelo e caos trasporti in mezza Europa, non solo in Italia, per l'Unione Europea tutto ciò è inaccettabile. Anche magari dovete andare in viaggio in aereo per Natale. Che ne pensate? Siete d'accordo di tutti questi disagi inaccettabili in mezza Europa per il gelo, la neve? Oppure, l'inverno è l'inverno, fa freddo, rassegniamoci, c'è la neve, soprattutto nel nord Europa. Votate su radio24.it, bianco o nero, e poi che dire, andiamo alla lettura dei giornali in edicola. In primo piano. Le aperture dei principali quotidiani, Sole 24 Ore: spese sorvegliate dal fisco, con il mille proroghe va a febbraio il termine sulle case fantasma. Ieri approvato il mille proroghe con tante novità. C'è chi sceglie la giornata degli studenti, fortunatamente pacifica per il 99% delle manifestazioni. Napolitano riceve gli studenti per Repubblica, e così il messaggero Napolitano studenti sia al dialogo. Mentre per il Corriere, PDL il caso Prestigiacomo. La Stampa invece: Lega a fondo contro Fini. Per il Giornale: tre donne fanno tremare il governo, sono la Carfagna, la Prestigiacomo e Rosi Mauro, no? L'autrice di quello spettacolare scorcio di presidenza al Senato ieri, in cui faceva approvare gli emendamenti in tempo zero. Ma da dove voglio partire? Voglio partire da una storia raccontata dalla Stampa, pagina 20. I giudici bocciano il prof che non interroga mai. È una storia che viene da Asti, riguarda il professore delle superiori Luigi Monti, 52 anni, che si era concesso qualche divagazione, racconta Massimo Coppero. Insegna diritto, ma lo insegnava attraverso l'analisi critica delle favole, i dibattiti di attualità, i film sulla sicurezza stradale, che secondo gli studenti era uno dei chiodi fissi del docente, rievocazioni storiche in costume del 600, un altro degli interessi del professore. E poi, quando sono arrivati i carabinieri sulle segnalazioni degli studenti, hanno scoperto che ha una volta dato un 7 politico a un'intera classe, una volta ha concesso un 8 alle poche studentesse solo perché si erano presentate il giorno dopo a scuola, dopo il rientro da una gita scolastica. Insomma, un modo di insegnare un po' sui generis, no? Diciamo così, con un eufemismo. Tanto che il giudice Ceccardi lo ha condannato. Lo ha condannato con 9 mesi di carcere per falso ideologico, perché sui registri di classe dava valutazioni, ma non faceva prove, non interrogava, così faceva queste spiegazioni un po' strane. E tra l'altro viene intervistato questo Luigi Monti, insegnante, dalla Stampa, che dice: come è andata la sentenza? È andata benissimo. Può sembrare strano, ma benissimo. Il giudice ha contenuto la pena nei minimi e mi permette di continuare a insegnare ai ragazzi. È quello che più mi premeva. Loro non mi hanno mai denunciato, nessuno studente mi ha mai accusato spontaneamente, hanno solo risposto a domande della polizia e dei magistrati. Ho semplicemente cercato di trovare il metodo più adatto per fare apprendere loro qualcosa e credo di esserci riuscito. Il suo metodo didattico non era dei più tradizionali. Il suo avvocato dice: c'è la libertà di insegnamento e la valutazione garantita dalla Costituzione italiana. Sta di fatto che ci racconta anche di una lezione basata sulla storia di Alice nel Paese delle Meraviglie. Questo per insegnare il diritto. E al giudice tutto ciò non è piaciuto. I giudici bocciano il prof che non interroga mai. Questa pagina 20 della Stampa. Mentre leggo dal Quotidiano Nazionale la vicenda che riguarda Ferdinando Carretta, che oggi ha 48 anni, fa l'operatore ecologico e che forse ricorderete nell'89 sterminò la sua famiglia, padre, madre, fratello, fatti anche a pezzi, corpi mai trovati, tra l'altro. Ebbene, venduta la casa dell'orrore, la casa dove viveva la famiglia, Carretta in tasca 200.000 euro, cioè è stata venduta quella casa, e vabbè, fin qui nulla di male, solo che 200.000 euro li ha presi lui, cioè è il proprietario di questa casa. Carretta, che tra l'altro qualcuno ha provato ad avvicinare a Forlì, lavora in una cooperativa, ma dicono sia molto nervoso, basta, non parlo con nessuno. La replica furibonda a un collega che ha appena raccolto la telefonata di un cronista. 200.000 euro freschi freschi nelle tasche di Carretta. Si comprerà una casa, forse a Forlì, ipotizza qualcuno che lo conosce un po', perché ora vive in una comunità. 4 agosto 89, Ferdinando Carretta uccise a colpi d'arma da fuoco il padre, la madre, il fratello, i corpi mai trovati. Poi ricordate la vicenda che confessò in diretta praticamente in un'intervista a Chi l'ha visto, venne ritrovato a Londra e poi nel 2008 è tornato libero e ora ha una dote di 200.000 euro perché ha venduto la casa dell'orrore, come racconta il quotidiano nazionale. Vabbè, ci fermiamo per pubblicità e meteo e poi ripartiamo dalla politica, c'è il caso Prestigiacomo e anche dal giorno dell'approvazione della riforma universitaria. In primo piano. Il caso Prestigiacomo, questo è ciò che ha animato la politica ieri, soprattutto, ma poi c'è il giorno oggi della riforma universitaria, perché il ministro Prestigiacomo ieri ha avuto davvero uno scatto di rabbia quando c'era una legge da approvare. Era presente in aula, ha fatto sapere agli propri compagni di partito del Popolo della Libertà che era contraria a un articolo della legge, ma quell'articolo è passato comunque, in pratica si è votato contro il parere del ministro. A quel punto è sbottata e allora è uscita, ha detto io lascio il PDL, con anche molti del PDL che gli gridavano dimissioni. Per la verità il caso poi sembra un po' rientrato, nel senso che in serata c'è stata una mediazione di Letta, la cena con Tremonti, che è uno dei rivali politici della Prestigiacomo, anche nei consigli dei ministri, e pare che il caso possa rientrare. In ogni caso ci sono tanti profili di Stefania Prestigiacomo, per esempio Paolo Conti, vi segnalo sul Corriere della Sera, da Pisano a Tremonti, i duelli del ministro, la rabbia e le lacrime sono un diritto. Il suo rapporto con l'emotività è schietto, a viso aperto, quasi un punto d'orgoglio femminile e insieme politico. Il 10 novembre 2005 in Consiglio dei Ministri si discute di legge elettorale di quote rosa. Beppe Pisano dice andate pure avanti ma non contate su di me. A quel punto Berlusconi blocca tutto questo provvedimento molto voluto dalla Prestigiacomo e Berlusconi dice alla Prestigiacomo: Stefania, ti prego, non fare la bambina. Quella parola bambina fa scattare la molla del ministro. Non ti permetto di dire che faccio la bambina. Lacrime immediate. Lascia il consiglio, inseguita da Gianfranco Fini e Paolo Bonaiuti. E poi dice: rivendico il diritto alle lacrime. Sono umana, non mi vergogno di piangere in un momento di particolare rabbia. Perché anche ieri, davanti ai giornalisti, praticamente era in lacrime quando ha comunicato: lascio il PDL. Però anche molto combattiva. Quando l'hanno criticata per questo, la Prestigiacomo disse: ho visto piangere in Consiglio dei Ministri anche uomini, ma non faccio nomi. Ah, se li facesse, che bello. Poi, molto combattiva, 15 dicembre 93 a Ballarò, anzi scusate, il 17 maggio 2005 a Ballarò, nel 93 la Prestigiacomo era molto giovane. Molto più giovane. Nel 17 maggio 2005 fulmina Piero Fassino che le dice: sei troppo giovane per giudicare il mondo, prudenza. E lei risponde: ma insomma, il mondo è più grande della tua testa, mi dici? Anche della tua, saggio Fassino, sei nervoso? Quindi anche molto combattiva, o come quando nel 2006 definì carognate le voci che la inseguono su un suo flirt con Gianfranco Fini, o si spazientisce davvero quando Giuliano Amato nel 2007 sostiene che picchiare le donne è nella tradizione siculo-pakistana, lei siracusana, siciliana, dice sono offesa, chieda scusa o lo querelo. Insomma, si ricordano in questo articolo di Paolo Conti tutte le varie battaglie politiche, i vari duelli, anche scambi di parole molto, molto salaci a volte che Stefania Prestigiacomo ha avuto in questi anni. C'è da dire che c'è un Berlusconi, secondo Carmelo Lo Papa su Repubblica, molto irato, l'ha definita una pazzia. Ieri, quando ci sono state le prime notizie di Stefania Prestigiacomo che ha detto esco dal governo, Berlusconi avrebbe detto fatele sapere che non intendo vederla, non ora, forse più in là. È chiaro che se lascia il PDL lascia pure il governo. Avevo detto a tutti di tapparsi la bocca dopo la fiducia, di darmi tempo per mettere mano al PDL e al governo, e invece proprio lei, dopo Mara, vale a dire Mara Carfagna, in un momento così inopportuno mi crea altri problemi. Insomma, un Berlusconi arrabbiato, ma appunto ieri poi, come racconta anche il Sole 24 Ore, come racconta la stampa, c'è stato un incontro con il capogruppo Cicchitto, col quale la Prestigiacomo ha avuto vari problemi. Inizialmente ha detto io non posso più restare in un partito in cui il capogruppo mio è Cicchitto. Hanno chiarito, hanno superato l'incidente, poi è andata a cena con Tremonti. Ma il caso è rientrato? Questo è il punto di domanda. Si vedrà, forse oggi Berlusconi incontrerà personalmente la Prestigiacomo per un chiarimento. L'altro tema politico è che la Lega ieri ha alzato il tiro, come titola anche la Padania. La Lega ha puntato molto su Fini. La Lega sul tavolo le dimissioni di Fini, questo è il titolo della Padania di oggi. La Lega con il capogruppo Marco Reguzzoni dice la Camera consideri le dimissioni di Fini. Questo è anche il titolo del punto di Luca Ostellino oggi sul Sole 24 Ore, pagina 17. Ah, questo è un altro tema che secondo molti retroscena ha fatto arrabbiare Berlusconi, perché Francesco Bei su Repubblica racconta, confida Claudio Scajola, non ne sapeva nulla di questa iniziativa e non l'ha presa affatto bene. Sappiamo, è un momento in cui Berlusconi vuole allargare la maggioranza, tenta di allargare la maggioranza, vuole includere Casini, e questa mossa della Lega, che è molto nemica politicamente di Casini, sembra quasi dire mentre io cerco di allargare la maggioranza, puntellare la maggioranza, c'è qualcuno che, in questo caso la Lega, che con questa iniziativa invece fa un qualcosa che rischia di creare un po' di scompiglio politico. Berlusconi vuole talmente allargare a Casini la maggioranza che, racconta Francesco Verderami sul Corriere della Sera, siamo sempre dietro le quinte, retroscena, la politica raccontata così, ieri Berlusconi ha telefonato a Casini. La telefonata a Casini, ecco la mossa del Premier. L'obiettivo del Cavaliere è chiaro, racconta Francesco Verderami, portare a compimento la caccia grossa tra i futuristi, cioè i finiani, affidata all'ex finiano Moffa, quello che è uscito già dai finiani, e dopo aver ingrossato le file della maggioranza, premere sull'UDC. Tanto che ieri c'è stata la telefonata. Come ha risposto Casini, ne riparliamo a gennaio. Questo la risposta di Casini. C'è tempo, c'è anche il Natale e poi a gennaio, l'11 gennaio sappiamo c'è anche la decisione della Corte Costituzionale sul legittimo impedimento. A proposito di Casini, ne parla Vittorio Feltri, che è sbarcato a Libero da editore, ieri ha fatto i saluti sul giornale, oggi prima pagina di Libero il direttore Maurizio Belpietro intervista Vittorio Feltri. Perché sono tornato, questo è il titolo di apertura di prima pagina di Libero, con Vittorio Feltri che racconta perché sono tornato, perché ha lasciato Libero, perché è tornato, eccetera, perché fa l'editore. A proposito di Casini, dice Feltri, è un politico di lungo corso, un democristiano classico, incline alle trattative, scaltro opportunista, gioca di rimessa, qualche gol lo fa anche. Vado giù piatto, mi è simpatico sul piano umano, ma su quello politico mi dà sui nervi. E se Berlusconi lo carica sul carro del centrodestra è evidente che lo fa per disperazione, come per disperazione caricò Fini, salvo pentirsene subito dopo. Insomma, la politica, siamo tutti agli assestamenti, mentre oggi certo un tema politico è quello dell'approvazione della riforma, definitivamente della riforma. Oggi alle 16 in diretta TV, è slittata oggi come era nelle previsioni, la riforma universitaria, per la quale ieri ci sono state le manifestazioni, fortunatamente tutte manifestazioni pacifiche, tanto che per esempio i giornali come il Manifesto mette una foto della manifestazione di un corteo, fanno centro il popolo dei giovani, tra l'altro questo è l'editoriale di Valentino Parlato sul Manifesto, che scrive anche perché un po' più anziani, anche molto, dobbiamo stare vicini a questo movimento, uniti contro la crisi, è un'affermazione di volontà e di realismo. Il manifesto nella sua ormai quarantennale storia è sempre stato coi giovani, solidale e anche critico. Il manifesto è ancora con questa fiduciosa realtà giovanile, scrive Valentino Parlato. Dunque oggi alle 16 la riforma, tra l'altro c'è stato il Quirinale che ha ricevuto 12 studenti, tutti emozionati, tutti in gruppo, una delegazione è andata a parlare, un'oretta abbondante col capo dello Stato Napolitano, hanno commentato sicuramente siamo la delegazione peggio vestita nella storia della Repubblica che ha incontrato e che è salita al Quirinale. Certamente se vedete le foto, insomma, vestiti come da studenti in manifestazione, no? Sono andati così, certo non in giacca e cravatta. E con Napolitano che ha detto bisogna assicurare il dialogo, eccetera, ma all'appello Napolitano non firmi, Napolitano ha fatto capire che non è nelle sue prerogative non firmare, al limite può rimandare i testi, insomma ci sono tutte le prerogative costituzionali. Sta di fatto che oggi c'è l'approvazione alle 16 in diretta TV, la dichiarazione di voto finale per quel che riguarda l'approvazione della riforma universitaria. Ieri c'è stata anche politicamente un'importante iniziativa, quella dell'approvazione del mille proroghe. Trovate tutti i dettagli sul Sole 24 Ore, perché ovviamente quando c'è il mille proroghe ci sono tante tante novità. Una su queste riguarda le case fantasma, che è una vicenda che ha tirato fuori il Sole 24 Ore quando il catasto ha scoperto che ci sono centinaia di migliaia di case non denunciate, case fantasma, per le quali ora bisogna forse, che dite, denunciarle. E beh, c'è stato un rinvio. Marco Mobile e Gianni Trovati scrivono a pagina 5 che ci saranno 2 mesi in più per garantire l'emersione delle case fantasma. Dunque fino al 28 febbraio ci sarà tempo per presentarsi al catasto senza incappare nelle sanzioni. Questa è una novità sull'immobile spuntata appunto sul decreto legge mille proroghe approvato dal Consiglio dei Ministri. Il testo è ancora in fase di affinamento. Che cosa c'è? È rispuntato il 5 per mille, questa è una buona notizia. Ci sono 100 milioni riservati al sostegno dei malati di sclerosi laterale amiotrofica, la SLA, come peraltro già si prevedeva nella legge di stabilità. C'è però un taglio e infatti ci sono molti giornali già allarmati. 200 milioni che sono stati reperiti per finanziare il 5 per 1000, ne abbiamo fatto anche noi una puntata, una campagna, era giusto rifinanziarlo. Dei 200 milioni trovati, appunto, 50 milioni arriveranno dal fondo per i contributi all'editoria, giornali di partito e cooperative, cioè 50 milioni dei 200 trovati per rifinanziare il 5 per 1000 sono stati tolti dai contributi per l'editoria, al che ci sono appunto i giornali, il manifesto che dice nell'editoriale di Valentino Parlato, ecco il governo ci attacca, hanno tolto i fondi, l'Unità, lo scandalo mille proroghe, c'è il 5 per 1000 con truffa, a pagina 18 Laura Matteucci, dimezzamento dei contributi per l'editoria. Da 100 a 50 milioni, cioè con la legge di stabilità erano state tolte le risorse al 5 per 1000 e sono state date all'editoria, ora col mille proroghe sono state tolte all'editoria e date al 5 per 1000, quella che l'Unità definisce una vera e propria partita di giro. E allora già partono gli allarmi, sono a rischio 4.000 posti di lavoro e 100 testate, denuncia per esempio il senatore Vincenzo Vita, un ceffone dato sotto l'albero da Tremonti. Questo è un tema interessante anche sul Quotidiano Nazionale, arrivano i soldi per 5 per 1000, ma arriva contemporaneamente la scure su quotidiani e TV locali e giornali di partito. Come la pensate? Questo è il dato di fatto. Volete, visto che siamo a fine anno, tempo di bilanci e tempo di legge di bilanci, c'è una cosa che fa discutere molto la regione Liguria. Perché nella regione Liguria si è discussa ieri la legge finanziaria. Il caso non c'è solo sul Secolo XIX, comprensibilmente a pagina 11, scontro sui centri sociali, questo è il titolo. Perché? È finito anche a pagina 5 del Corriere della Sera. La Liguria finanzia i centri sociali e non gli oratori. Lo rileggo, è il titolo. La Liguria finanzia i centri sociali e non gli oratori. La regione Liguria boccia i finanziamenti agli oratori concessi dai bilanci precedenti e approva un ordine del giorno della sinistra che la impegna a sostenere politicamente e finanziariamente i centri sociali. Potete immaginare che sia scoppiata la bagarre. Il vicepresidente del Consiglio del PDL, Morgillo, accusa una vergogna. La maggioranza ha respinto le nostre richieste di sostegno al sociale a partire da quelle per gli oratori, dicendo che non c'è un centesimo e si vogliono dare soldi ai centri sociali. È intervenuto anche il presidente della regione Burlando. Negli anni precedenti abbiamo dato 10 milioni di euro agli oratori, quest'anno non è possibile, ci sono i tagli di Tremonti. E alla questione centri sociali dice: abbiamo fatto un ordine del giorno, non abbiamo ancora deliberato alcuna spesa per i centri sociali, se avremo risorse valuteremo caso per caso. Perché non dovremmo aiutare anche i centri sociali? Peraltro, chiede Burlando, ci sono centri di aggregazione giovanile autogestiti che fanno musica, cultura, sono attivi nel sociale. Il secolo XIX, per la verità, fa notare che ci sono anche forse un paio di centri sociali che sono destinati anche all'attenzione da parte di queste delibera e che sono però anche attenzionati dal Viminale, dal Ministero dell'Interno. Sta di fatto. La Liguria finanzia i centri sociali e non gli oratori, così sul Corriere, ma anche sul secolo XIX. Il traffico. In primo piano. Intesa vicina per Mirafiori, leggo nella prima pagina di Economia e Imprese del Sole 24 Ore, perché oggi c'è un importante incontro tra sindacati e Fiat per Mirafiori. L'accordo su Mirafiori, sapete che fa molto discutere dopo l'accordo su Pomigliano. Oggi il tavolo tra Fiat e sindacati, Nicoletta Picchio ne parla appunto a pagina 19, l'appuntamento è questa mattina con la FIOM, che racconta Giorgio Pogliotti in taglio basso, molto probabilmente sarà al tavolo per dire no, ma certo l'auspicio un po' di tutti è che ci sia un accordo prima di Natale. Tra l'altro c'è anche un commento di Giuseppe Berta a pagina 15, Mirafiori chance per tutti. Se nella giornata di oggi verrà raggiunta un'intesa sindacale per lo stabilimento di Mirafiori necessaria all'avvio della joint venture Fiat Chrysler, vorrà dire che la strada del cambiamento delle relazioni industriali passa ancora una volta da Torino. Il nuovo accordo è destinato a segnare l'ingresso della globalizzazione nella sfera diretta dei rapporti di lavoro e della loro regolazione. Certo, Mirafiori non è Pomigliano d'Arco, saranno differenti il valore e il significato del documento. La fabbrica torinese rappresenta dal punto di vista storico il volto pubblico della Fiat e un accordo valido per lo stabilimento in cui il 5 agosto 71 fu siglato il contratto, divenuto poi la pietra angolare delle relazioni industriali all'interno del gruppo, è chiamato a costituire un paradigma. Certo, appunto, aggiungo io, un accordo a Mirafiori, come scrive Giuseppe Berta, sarebbe un accordo anche simbolicamente, storicamente importante. Tra l'altro il Foglio continua nella sua serie di interessanti interviste su questo tema, sul caso dell'americano Marchionne, viene così definito, anzi viene definito anarco-americano Marchionne. Il primo Marchionne sono io, oggi parla il ministro del lavoro Sacconi. In un colloquio col Foglio dice: ma che conservatore, ma che equidistante o sonnecchiante. Maurizio Sacconi non si riconosce in questi aggettivi, specie da quando Marchionne ha chiesto un'innovazione all'americana dei rapporti azienda-lavoratori. Un ministro che ridimensiona la portata della rivoluzione marchionnesca, come l'ha definita il Foglio, e che dice: nel nostro assetto regolatorio ha un grande peso già la contrattazione collettiva e accordo cambia accordo, per cui le regole possono essere facilmente adattabili a settore e ad aziende. Riguardo a Marchionne dice Sacconi: se in Marchionne c'è un'ideologia è la non ideologia. Ha un approccio pragmatico, un pragmatismo condiviso dai sindacati riformisti in antitesi al vecchio conflitto di classe. Per questo chi parla di modelli sbaglia. Chi lo fa pensa che il tessuto produttivo dell'Italia sia composto solo da grandi fabbriche e dalla Fiat. Sacconi che poi dice: sono fiducioso per l'accordo Mirafiori entro Natale, visto che c'è l'incontro di oggi, e lo definisce un auspicio informato, diciamo così. Insomma, staremo a vedere, c'è molto su questo accordo, trovate sui giornali, mentre c'è molto anche del tema del nostro sondaggio. Al nostro sondaggio noi parliamo di la paralisi, non solo italiana, la paralisi di mezza Europa dei trasporti, neve, gelo, con blocco di vari aeroporti come quello di Heathrow, che sembra diventato un aeroporto del terzo mondo. Ebbene, trovate moltissimo sui giornali, intanto sul Corriere della Sera un'intera pagina: brande, tende e clown per i bimbi. la vita si trasferisce in aeroporto, il racconto di quello che sta succedendo a Francoforte, dove c'è gente che dorme. Addirittura viene messa la foto di Tom Hanks nel, sapete, il film The Terminal, quello della storia vera di un uomo che ha vissuto per una serie di disguidi vari mesi all'aeroporto JFK di New York. In questo caso c'è il racconto di Francoforte, dove il governo ha fatto arrivare dei clown per intrattenere i bambini, persone che le brandine ovviamente per dormire, la metamorfosi degli scali per accogliere migliaia di passeggeri rimasti a terra. Voglio raccontare anche quello che è successo a Heathrow, dove il disastro neve ha portato il responsabile, l'amministratore delegato della società che gestisce l'aeroporto, Colin Matthews, come racconta Libero a pagina 24, il direttore si taglia il bonus. Oh, finalmente qualcuno che per carità non si dimette, anche in Gran Bretagna, immagino, racconta Libero, prima di dimettersi neanche una pistola puntata alla tempia, non può bastare. Però almeno per rispetto dei passeggeri, il direttore dello scalo aeroportuale di Heathrow ha detto quest'anno rinuncio al bonus di Natale, per rispetto di quello che ho combinato. Oh, finalmente, attaccato da viaggiatori e sindacati, Colin Matthews fa il bel gesto, niente tredicesima, racconta Libero a pagina 24. Almeno, insomma, un piccolo gesto da parte del responsabile di questo, uno dei responsabili di questo disastro, ma anche la neve, anche la neve è responsabile. Tra l'altro il giornale a pagina 20, a pagina 15, ecco perché viaggiamo informati in ritardo. È il regolamento, uno studio, un articolo sul regolamento del CIS, lo strumento Viaggiare Informati, quello Isoradio, racconta Valerio Boni. Qual è il problema? Perché spesso la gente dice, ma come? Io sono in coda e i caselli e la radio dicono che non siamo in coda. Sono in coda da un'ora e dicono ci sono dei rallentamenti. Ecco svelato il mistero. Perché? Ce l'aveva detto anche un ospite un paio di giorni fa, credo Paolo Uggè, il rappresentante degli autotrasportatori. Perché ogni informazione deve essere, prima di venire data in radio, deve essere controllata e validata dalla polizia stradale. Accidenti. È una forma di cautela, perché se uno dà poi un'informazione sbagliata ci si cautela da eventuali cause civili che uno poi può fare, e quindi la polizia stradale deve prima vidimare e dare sì, ok, c'è la coda. E questo chiaramente crea un po' di tempo perso, l'avviso arriva sempre quando l'ingorgo c'è già. Comunque parliamo di questo, situazione inaccettabile per l'Unione Europea, quello che è successo nei trasporti in Europa, che ne pensate? Sappiate che pioggia e vento, questo vi aspetta, pioggia e vento per il Natale, forse anche neve, quindi se dovete viaggiare informatevi prima, in ritardo ovviamente. Trovate molto di cronaca anche sui giornali, voglio dare qualche citazione finale. Beh, la prima viene da Libero. È una cosa, una svolta, sarebbe una svolta. Cristiana Lodi racconta, Cristiana Lodi è sempre molto attenta per la cronaca, soprattutto cronaca nera, la vicenda di Yara Gambirasio, ancora totalmente dispersa, questa ragazzina di Brembate, scambio di persona, non volevano rapire Yara. E in prima pagina di Libero sarebbe un'indiscrezione abbastanza clamorosa. Chi indaga ha in mano elementi per ritenere che l'ipotesi sia verosimile, e cioè volevano prendere non Yara ma un'altra persona, una vicina. Ci sono intercettazioni, conversazioni captate dalle microspie piazzate dagli investigatori, il contenuto induce a imboccare questa nuova strada per trovare la chiave del giallo. Yara rapita per uno scambio di persona, così dice Libero. Sarebbe davvero incredibile se confermata questa notizia. Voglio andare a che cosa? All'ultima segnalazione? Ebbene sì, feste in tavola, corsa ai cibi, via le campagne antispreco. Ma sì, ormai è quasi tutto pronto per i cenoni natalizi. Pagina 33 del Corriere. Sappiate che entro gennaio, secondo una stima, butteremo via 500.000 tonnellate di cibo. Ma mica perché è cattivo o scaduto, ma solo così, perché non ci va più. Un insulto alla miseria che costerà 80 euro a famiglia. 500.000 tonnellate di cibo che butteremo via per Natale. stime davvero vergognose, realistiche ma vergognose. Va bene, ci fermiamo, ora c'è il GR, votate il sondaggio. Allora, i trasporti bloccati in mezza Europa per il neve, il gelo, la neve, il gelo, una situazione inaccettabile, dice il commissario dei trasporti dell'Unione Europea. Siete d'accordo? Questo è il nostro sondaggio, e se dovete partire per Natale ovviamente, buon viaggio, e il GR. 24 mattino, l'intervista. Eccoci qua da Alessandro Milan alle 8:19 minuti. Voglio salutare per la nostra intervista oggi il sottosegretario all'attuazione del programma, Daniela Santanchè. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. Senta, che c'è un nuovo caso nel governo? Lo strappo di Stefania Prestigiacomo è rientrato oppure no? No, è assolutamente tutto rientrato. C'è stato un attimo ieri, ma insomma nel giro di poche ore tutto è andato a posto. Tutto risolto, dice. Assolutamente. Perché la Prestigiacomo ancora una volta si è fatta prendere anche dalle lacrime, non è la prima volta. Lei che ne pensa, delle lacrime? Lei ha pianto per la politica? Sì, ho pianto, ma chiuso in una stanza da sola. Sono soddisfazioni che eviterei di dare. Prima di tutto, però trovo che la lacrima, il pianto non è una cosa brutta, non è che secondo me è una cosa che non va fatta, è un'emozione, c'è chi le emozioni le conserva di più nell'intimo e le vive in maniera più solitaria e chi invece, voglio dire, le fa davanti ad altri, una questione di atteggiamento. In ogni caso lei dice il caso è rientrato, perché sui giornali oggi dicono sì, certo c'è stata la cena con Tremonti, ieri forse si sono un po', c'è la mediazione di Letta, però il caso sui giornali ancora viene dato come un qualcosa di... Sì, ma è un caso mediatico più che sostanziale politico. Ieri sicuramente c'è stata la presa da parte di Stefania, una presa come abbiamo visto tutti, però oggi esiste sui giornali ma non esiste più nella realtà politica. Quindi non abbandona il PDL secondo lei? Ma assolutamente no. Assolutamente no. Senta, l'altro tema è la Lega che ha chiesto le dimissioni, o meglio, discutiamo delle dimissioni di Fini. Pare che Berlusconi sia rimasto un po' sorpreso, diciamo, anche un po' spiazzato, un po' arrabbiato anche dalla mossa leghista. Intanto le chiedo se è vero. Ma guarda, io trovo che però in questo caso la Lega bene ha fatto, perché Fini fa il Presidente della Camera perché è stato votato dall'Assemblea, cioè dalla Camera stessa, ed è espressione, deve essere il Presidente di tutti i deputati, però è espressione, come è chiaro, della maggioranza. Oggi Fini all'opposizione, io credo che se trovasse quel sussulto dell'appartenenza di uomo di destra, per una questione di dignità e d'onore si dovrebbe dimettere. Ah. Non bisognerebbe nemmeno chiederglielo, lo dovrebbe fare spontaneamente. Spontaneamente. E dice, dovrebbe avere un sussulto da uomo di destra, che non è più secondo lei? Beh, insomma, per me dalla procreazione assistita, al Corano nelle scuole, al voto di immigrati, alle coppie gay, beh, insomma, la destra mi sembra altra cosa. Altra cosa. Senta, oggi si approva la riforma universitaria, dovrebbe approvarsi alle 4, c'è il voto anche in diretta TV. Ha visto che gli studenti hanno sfilato e diciamo al 90% dei casi è andata bene, c'è stato qualche problema a Tafferuglia, a Milano, a Palermo, scontri, però insomma si temeva, no, dalla vigilia qualcosa di ben peggio, no? Bene, hanno dato un bel segnale agli studenti, io trovo che è sempre bello quando gli studenti manifestano, se manifestano come hanno manifestato ieri. Vedi, di questa protesta studentesca, e ripeto, anch'io quando ero universitaria manifestavo e mi piace, cioè trovo che sia bello, che sia stimolante, che sia giusto, però questa volta di questa protesta studentesca c'è una cosa che non mi convince assolutamente. Cosa? Il collante tra gli studenti e i professori. Quando gli studenti e i professori sono insieme c'è qualcosa che mi puzza, perché è ovvio che il corpo studentesco deve essere contro gli insegnanti, quindi questa volta c'è qualcosa che non mi piace. E che cosa c'è lei secondo? Cosa c'è sotto? No, sotto non lo so che cos'è, ma siccome siamo stati tutti studenti universitari, siccome tutti abbiamo manifestato, però non eravamo mai insieme ai professori, eravamo contro i professori per una questione naturale. questa cosa insomma le puzza. Senta, una sua vicenda personale, forse ricordiamo quando il 20 settembre 2009 lei si presentò alla fabbrica del vapore in via Procaccini, dove c'era, che cosa c'era? Una moschea improvvisata. La fine del Ramadan. La fine del Ramadan, ecco. Lei rischia di andare a giudizio, è stata interrogata anche dal procuratore Spataro a Milano, perché tentò con piccole e predatorie 6 o 7 fughe in avanti e via via che arrivavano le donne coperte dal niqab, di strappare loro il velo. L'ipotesi potrebbe essere di turbamento di funzioni religiose e manifestazioni non autorizzate. Può finire a giudizio? Strappare il velo mai, perché sarebbe molto più semplice per me strappare la barba a un barbuto che un velo a una donna. Quindi proprio non è nel mio atteggiamento. L'ho fatto, lo rifarei, lo rivendico con orgoglio, perché ero lì non per turbare una funzione religiosa, che ne ho il rispetto, ma per far rispettare la legge italiana, la 152 del 75, che vieta chi sia di girare sul territorio nazionale col volto coperto. E però rischia di finire a giudizio. Molte erano lei. Le donne col burka e col niqab, e questo non deve succedere. Questo però rischia di finire a giudizio lei, questo è il dato. Pazienza. Di fatto. Pazienza, guardi, posso anche essere condannata, non retrocederei di un passo. Continuerei a farlo quello che ho fatto, perché mi farebbe piacere che mio figlio, come tutti i figli, vivesse in un'Italia dove non bisogna chiedere il permesso per cantare le canzoni di Natale o per fare il presepe. Per questo sono disposta anche a pagare con un rinvio a giudizio. Tra l'altro il procuratore Spataro, che l'ha interrogata, è lo stesso che pare voglia aprire un'inchiesta alla procura di Milano. Discriminazione razziale, questa potrebbe essere l'ipotesi di reato per la vicenda di cui noi ci siamo occupati nei giorni scorsi, delle case non date ai Rom, le case popolari, prima promesse bisogna dire a tempo debito e poi negate ai Rom. Che ne pensa lei? Parlare di discriminazione razziale mi sembra veramente un assurdo. È discriminante se si danno le case prima agli italiani, prima a quelli che si comportano bene, prima a quelli che non hanno una fedina penale lunga dei chilometri, ma per le persone che si comportano come bisogna comportarsi, a me sinceramente non mi sembra discriminazione, mi sembrerebbe al contrario. Però questo vorrebbe dire, come ho chiesto anche al vice sindaco Decorato, che Rom uguale una persona che non si comporta bene per forza che ruba, insomma, secondo questa logica. Non lo faccio questo abbinamento, certo, molti sono quelli che si comportano male, basta andare a vedere nei loro campi. Basta andare a vedere la fedina penale di questi, basta andare, ma mica tanto lontano, a San Vittore e vedere che percentuale hanno i Rom della reclusione in carcere. Cioè, adesso siamo onesti, nessuno ce l'ha con nessuno, però neanche farsi prendere per il naso, perché poi quelli, voglio dire, non lo so, forse lei non sarà mai successo, ma chi ci ascolta forse sì. Quando si è stati borseggiati, portati via l'orologio. No, un paio di volte, mia moglie, un paio di volte. Ecco, che nazionalità aveva? No, sì, erano i cosiddetti zingarelli. Allora, ho capito, ma voglio dire. Quante volte entrano nelle case, rubano, scippano? Noi dobbiamo premiarli con la casa. Lei dice. Una roba da pazzi. Senta, nel salutarla e ringraziarla, dunque anche la Santa anche ha pianto per la politica, non ci vuol dire quando, una volta che ha pianto, nelle segrete stanze chiuse ovviamente sue, non pubblicamente. No, ma non lo dica così, semplicemente perché piangere per me è un'emozione intima. Ma per la politica ha pianto una volta, per la politica? Sì, ma io ritengo che le emozioni bisogna impararla a vivere intimamente, vorrei che ritrovassimo il rossore, il senso del pudore, non è che tutto si vive con tutti. Ci sono delle cose che si vivono da sole o con pochi. Va bene. La ringrazio, ovviamente. Buon Natale, buona giornata, onorevole Daniela Santanchè, che è sottosegretario al Ministero per l'Attuazione del Programma di Governo. E che dire, noi ci fermiamo per la pubblicità e poi parliamo di questa Europa nella quale i trasporti sono davvero da giorni in difficoltà, soprattutto Heathrow, l'aeroporto sembra da terzo mondo, non l'aeroporto di Londra, uno dei più importanti al mondo. L'Unione Europea dice è inaccettabile tutto questo, i trasporti bloccati dalla neve, bloccati dal gelo. C'è invece chi dice, oh ragazzi, è inverno e anche i viaggiatori devono imparare che se viaggiano e se vogliono viaggiare devono farlo anche a loro rischio e pericolo. Che ne pensate? È davvero inaccettabile una situazione del genere? 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Votate il sondaggio su radio24.it tra poco. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:33 minuti, pronti a parlare del nostro sondaggio del caos trasporti in Europa. In Europa, dove il gelo, dove la neve hanno causato dei disagi incredibili. Heathrow sembrava l'aeroporto da terzo mondo, non l'aeroporto di Londra. E per tutto ciò l'Unione Europea dice è una situazione inaccettabile. Voi che ne pensate? È così oppure fa freddo? È inverno? Rassegnatevi. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Imprescindibili oggi due articoli che vi segnalo sul Corriere della Sera. Giuseppe Sarcina, brande, tende, clown per i bimbi, la vita si trasferisce in aeroporto. Un'intera pagina per raccontare a Francoforte come la protezione civile ha portato le brandile, hanno portato dei clown per intrattenere i bambini. C'è gente che sta lì da giorni, come a Heathrow, come non parlare del disastro Heathrow. E però l'altro imprescindibile articolo su Libero, pagina 24, per il disastro neve a Heathrow, il direttore dell'aeroporto si è tagliato la tredicesima. Udite, udite, per rispetto dei passeggeri ha detto: quest'anno io a Natale il bonus o la tredicesima non me lo merito. Oh, per carità, non si è dimesso, quello non si fa mai neanche, credo, in Gran Bretagna, o chissà, forse sì, però almeno un piccolo gesto l'ha fatto. Carlo Rienzi, buongiorno, presidente del Codacons, buongiorno. Buongiorno, scusate, qui capiterà una cosa del genere. No. Beh, la tredicesima, dai, non è mica, magari... Se... Però, insomma, un piccolo gesto, però l'ha fatto, Un bel segno, altro che... Anche secondo lei è inaccettabile che il caos trasporti sia così in Europa, oppure fa freddo, cioè non è, c'è la neve, non è che si può... Ma perché non si sa che fa freddo? Cioè non si sa che poi a un certo punto nevica? In Italia non lo sanno che ci sono dei giorni in cui si va sotto lo zero? Sanno tutto, se andate a guardare quello che hanno combinato, vi mettete le mani nei capelli, a partire dall'allarme meteo della protezione civile, che è il punto di partenza ovviamente, che io ho in mano, e che indica la zona di Firenze come bianca, cioè dove non nevicherà, capito? Cioè nevica quasi dappertutto tranne che nella zona dove è successo il finimondo. Pensate come sono bravi a dare l'allarme meteo questi qua. Dice, quindi, ma senta, ma poi pagheranno secondo lei? Perché noi avevamo avuto Matteoli 3 giorni fa sulla vicenda della A1, ci saranno poi rimborsi, pagamenti? No, ma Matteoli ha fatto una furbata, ha detto non faremo sconti a nessuno. Il che può significare o che non daranno una lira di sconto ai passeggeri che hanno avuto il problema, o che dice noi faremo, stanno facendo indagini per far pagare le sanzioni all'ANAS, alla società autostrada, a chi ha sbagliato. Ma il problema non è questo, noi non vogliamo che paghino solo le sanzioni loro, noi vogliamo che questa povera gente che è rimasta intrappolata nel ghiaccio abbia un risarcimento, un indennizzo. E su questo Matteoli non ha detto una parola, ma pagheranno lo stesso. Pagheranno lo stesso, lei dice. Anche se io voglio leggere quello che ieri ha pubblicato la stampa in prima pagina. Quei viaggiatori in coda per ore senza proteste. Leggo all'interno. Gli inglesi sono abituati alle avversità, come gli americani non hanno la tendenza a dare a qualcun altro la colpa delle conseguenze delle loro azioni. Se c'è da aspettare, si mettono pazientemente per ore in coda e la rispettano scrupolosamente. Se restano bloccati su un treno a causa degli scambi congelati, non chiedono la testa del presidente delle ferrovie, ma pensano che sia normale che questo avvenga quando fuori il termometro segna 20 gradi sotto zero. In Italia un istinto ancestrale, una falsa concezione del welfare portano invece tutti a pensare che sia un dovere dello Stato tirar fuori la gente dai guai in cui si è cacciata, da chi si è messo in viaggio in autostrada senza catene o gomme termiche, ben sapendo che c'era una nevicata, a chi sbraita al terminal dell'aeroporto perché gli inetti dirigenti della compagnia non riescono a far partire gli aerei con la pista coperta di neve. L'autore è Vittorio Sabadin, che è il vice direttore della stampa e che saluto. Buongiorno Sabadin. Buongiorno. Allora, è davvero così? Cioè siamo anche noi italiani, o comunque noi viaggiatori, che dobbiamo rassegnarci, che non è che tutto sia possibile? Ma credo di sì, perché noi siamo stati abituati negli ultimi anni all'idea che ci possiamo muovere quando vogliamo, nella direzione che vogliamo e che tutto deve sempre funzionare. Siamo stati abituati a questo anche da condizioni climatiche favorevoli, nel senso che gli ultimi anni sono stati anni più caldi, con inverni miti nei quali quasi non nevicava. Adesso che è tornata la neve, è tornato il gelo, sono tornate condizioni per le quali a volte è impossibile viaggiare, o comunque viaggiare richiede ore di coda, richiede disservizi, richiede situazioni spiacevoli. Non si può sostenere che la colpa di tutto questo è solo dello Stato che non pulisce le strade, o delle ferrovie che non fanno andare i treni, o delle compagnie aeree che non fanno andare gli aerei. Ci sono a volte condizioni avverse che impediscono un regolare svolgimento del servizio, e credo che le persone che viaggiano ne dovrebbero tenere conto. Perché lei ha scritto che c'è uno Stato bambinaia, che si pensa che questo Stato bambinaia debba sempre venire a tirarci fuori dai guai, a soccorrerci, a aiutarci. Ma l'idea è un po' questa, se facciamo un paragone con la Gran Bretagna e con gli Stati Uniti, appunto. Questo pezzo è nato perché avevo visto una foto, alcune foto appunto, intorno alla stazione di King's Cross St. Pancras a Londra, in cui c'erano quasi 2 chilometri di coda di gente che aspettava al gelo, e mi sono immaginato la stessa scena in Italia. Risse, gente che passava di là, gente che strattonava, tutti sarebbero entrati alla stazione facendo un grande caos, urlando, e allora mi sono domandato perché c'è questa diversità di situazione, ma perché essenzialmente negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, nel mondo anglosassone, si pensa che se c'è un problema la prima persona che lo deve risolvere sono io, non devo chiedere sempre aiuto. Negli Stati Uniti, ad esempio, c'è una crisi economica molto più seria, come sappiamo, rispetto a quella europea, con migliaia di persone che hanno perso il posto di lavoro. Eppure non vediamo cortei, non vediamo proteste, non vediamo gente che va in strada chiedendo allo Stato di intervenire. Le persone che perdono lavoro, ovviamente è una cosa terribile perdere un lavoro, ma le persone che perdono un lavoro negli Stati Uniti ne cercano un altro, cambiano città, si muovono, insomma, pensano che la soluzione dei problemi venga più da se stessi, o inizialmente venga più da se stessi che non da dall'esterno. Chissà che ne penserà Rienzi, tra poco glielo chiedo, ma intanto voglio salutare anche Osvaldo Gammino che ci sta ascoltando. Buongiorno Gammino, ben ritrovato. Buongiorno, rappresenta le compagnie aeree a Milano, le compagnie aeree straniere. Le chiedo, Gammino, quello che è successo a Heathrow. Perché tutti guardano Heathrow e dicono: ma com'è possibile? Cioè, voglio dire, a Stoccolma in 6 minuti puliscono la pista, a Oslo pure, a Helsinki pare che l'ultima volta che si è fermato l'aeroporto era il 2003 per mezz'ora, e Heathrow invece no. Per forza, le piste di Heathrow non sono riscaldate, questo è il problema. Ma nessuno pensa a riscaldare le piste. Saltiamo Heathrow, parliamo di Milano, che comunque con la neve ha avuto anche lei dei problemi 10 giorni fa. È inconcepibile andare a fare delle serpentine sotto le piste, soprattutto di Malpensa, per evitare la neve che cade forse quanto una settimana all'anno. Ci vuole la preparazione. Noi, dopo la grande nevicata che bloccò Malpensa e Linate, abbiamo chiesto alla SEA, abbiamo avuto una bella risposta. La SEA per esempio ha 40 spallatrici a Linate e 80 a Malpensa. Come la Protezione Civile e l'Aeronautica segnala che c'è rischio neve, si attiva tutta una procedura. Questo però non significa che l'aeroporto non si chiude, perché poi bisogna considerare che c'è da irrorare gli aerei di liquido antigelo, ci sono i ritardi dovuti al controllo del traffico aereo, c'è tutta una serie di coincidenze che purtroppo portano a far sì che, per esempio, l'ultima volta ci sono stati passeggeri chiusi in aereo per 3 ore prima della partenza. Sì, ma quello che è successo a Heathrow, cioè gente che è stata 3-4 giorni, voglio dire, è normale? Cioè, qui c'è Carlo Rienzi, ci deve dire che la gente si rassegni perché con una nevicata eccezionale un aeroporto di Heathrow si blocca così? Ma innanzitutto, chiedo scusa, gli italiani sono stati garbatissimi, perché e voi avete visto, dopo 23-24 ore di blocco sulla strada, o sulle strade dell'ANAS o sulle altre strade o in treno, interpellati dai mezzi di comunicazione, dicevano sì, siamo stati male, non abbiamo calmissimi, quindi non si permetta nessuno di dire che gli italiani sono quelli, avrebbero dovuto dare l'assalto a questi organizzatori, prima cosa. Seconda cosa, la civiltà di un paese, e non c'entra niente il welfare, il caro amico della stampa, si vede dal funzionamento dei servizi. Allora se io ti pago tutto l'anno, tu devi sapere che ci sono 7 giorni in cui devi essere pronto, anzi no, prontissimo a impedire che io resto fermo, però, perché ti pago tutto l'anno. Però Rienzi, le faccio un esempio, ieri leggevo sul Quotidiano Nazionale, in Germania se uno rimane senza benzina viene soccorso dalla polizia stradale e poi multato, perché senza benzina non devi rimanere. Cioè, è giusto. Senza catene e ha bloccato o la corsia d'emergenza, sono bloccati i tir, perché questo è il problema, la lobby dei trasportatori, perché se come in Francia si fosse fatto, ed è stato fatto in Francia, immediatamente il blocco dei mezzi pesanti, ma perché se un mezzo pesante si blocca non si può fare più niente, perché ci vogliono le gru per spostarlo, mentre la macchina 4 persone a mano la spostano. Allora non si vuol fare il blocco immediato dei mezzi pesanti, questo è il primo problema. Il primo problema è che ci fa vedere come la differenza, perché in Francia la gente poi non si incavola e qui sì. E invece qui non è stato fatto. Allora entrano 87 mezzi pesanti messi di traverso. E allora, invece Rienzi, le catene, la terza corsia occupata. Multati tutti. Non c'entra, ma ci vuole una struttura pubblica, che sono polizia stradale che fa le multe, polizia stradale che blocca chi entra senza catene, l'autostrada che fa l'ordinanza di blocco dei mezzi pesanti, o il prefetto, se lo deve fare il prefetto secondo di chi sia la competenza. Cioè ci sono delle strutture pubbliche che hanno dei doveri, la protezione civile che deve dare l'allarme meglio come si deve. Ogni caso, per il momento sono sempre vittime i cittadini. Sabadin, qui vediamo vice direttore della stampa, i cittadini sono sempre vittime, prendo questa frase di Rienzi, che ne pensa Sabadin? Onestamente non credo. Credo che, diciamo, stiamo parlando di un'eccezione. Non penso che bisogna tarare il sistema dei trasporti per le emergenze. Bisogna tarare il sistema dei trasporti perché funzioni normalmente durante l'anno. Poi accadono le emergenze. Il sistema dei trasporti globale è già in crisi tutto l'anno per effetto del fatto che la gente viaggia molto di più, i prezzi dei biglietti aerei sono diminuiti, c'è più disponibilità a muoversi, e quindi i ritardi nelle compagnie aeree sono all'ordine del giorno. Chiunque prenda un aereo sa benissimo che è difficile partire in orario ed è difficile avere un servizio puntuale. A Natale questo sistema esplode perché altre migliaia e migliaia di persone si mettono in viaggio, e quindi a Natale i disservizi sono già normali. Se a questi servizi normali si aggiungono le situazioni meteorologiche che abbiamo visto, straordinarie ed eccezionali a loro volta, che abbiamo visto in questi giorni, io penso che sia inevitabile che il sistema collassi. Certo, come ieri diceva Osvaldo Gammino quando parlavamo a Helsinki, tutto perfetto, e per forza vivono 8 mesi all'anno, o non so, più o meno, sotto la neve, certo. E quindi sono abituati a gestire certo. Questo. Insomma, chi non è che uno può tenere a Londra spalatori o pale per togliere tutto dalla neve, che poi 11 mesi all'anno stanno ferme, è una questione di costi-benefici. Ma in ogni caso, il traffico per l'appunto, e poi rientriamo da qui anche con qualche ascoltatore. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Detto che il 62% dei nostri ascoltatori votando il sondaggio dice sì, è inaccettabile questa situazione, voglio ricordare che Colin Matthews, l'amministratore delegato della società che gestisce Heathrow, che ha detto mi taglio la 13esima per rispetto dei passeggeri, guadagna, secondo i giornali, 1 milione di sterline l'anno, quindi insomma, non è un sacrificio pesantissimo la sua 13esima, 1 milione di sterline l'anno, ma l'intero aeroporto di Heathrow ha investito quest'anno per prevenire la neve e il ghiaccio 500.000 sterline, cioè 500.000 sterline investite, metà dello stipendio del suo amministratore delegato. Allora voglio sentire che ne pensa 800 24 00 24, come ascoltatori Gert, è giusta la pronuncia, la provincia di Modena, Gert. Sì, la pronuncia è giusta. Di dov'è Gert, allora, lei? Io sono dall'Olanda, vivo in Italia e sì, lavoro per Caracol e viaggio, faccio due o tre viaggi alla settimana, anche con aereo. E come va in Olanda con la neve? Oh, in Olanda c'è un c'è molto casino, è quasi peggio di dell'Italia, perché là dipende tutto, diciamo, dallo Stato, e sono buoni anche di escludere complete zone, complete province dalla pulizia dello strada. E la gente, proprio... e la gente che fa? Si lamenta? Sì. Oppure... si arrangia, vai sui pattini, sui canali a prendere, non so, cioè, però c'è molto confusione anche in Olanda. Adesso proprio con la neve l'altro giorno hanno dovuto dormire, io sono stato fortunato con il volo, ma hanno dormito alla sera sulla circonvallazione di Amsterdam. Senta, no? Quindi però senza, nota una differenza tra l'atteggiamento degli italiani rispetto agli olandesi, così qua, di fronte a queste... Dico, dove vivo io, a Modena, più mazza, così dico che sono bravissimi a pulire le strade, sono proprio, sono i contadini che lo fanno, sì, aspettano che lo Stato gli dà dei soldi per pulire, però quando partono, perfetto. Poi, quello che volevo dire, io viaggio veramente tutto l'anno, faccio tantissimi viaggi, ma in dicembre e gennaio io so che devo calcolare il rischio di non partire o di avere dei problemi. Cioè lei dice bisogna metterlo in conto. Quindi insomma avere un piano B. Io ieri l'altro a Budapest, io avevo il piano B. Se mi si ferma l'aereo, io prendo la macchina dell'Hertz, perché non posso rimanere fermo o in un aeroporto. Lo dobbiamo tenere per scontato. Difatti ho avuto 4 ore di ritardo al mattino qui a Bologna e dopo 4 ore alla sera di Vienna. Siamo arrivati a luna di notte. No, io la ringrazio. Il pragmatismo di Gert, il piano B sempre a disposizione. Grazie Gert. Cristina da Padova, buongiorno. Buongiorno. Io volevo un attimo intervenire sulla dichiarazione che ha fatto invece il vice direttore della stampa prima. Anche se evidentemente tanti disservizi che ci sono stati in questi giorni in Italia sono comprensibili e, come diceva anche l'ascoltatore precedente, sono stati un po' in tutta Europa, non soltanto in Italia. Però ecco, io non sono d'accordo sul fatto che gli italiani siano sempre pronti a chiedere assistenza allo Stato, soprattutto perché anch'io sono una persona che viaggia molto, io più che altro in treno, perché sono pendolare, ma di percorsi lunghi, da Padova vado a Novara, vado a Verona, vado a Roma, eccetera. Io non credo che questa protesta degli italiani in questo momento sia esagerata, soprattutto se la confrontiamo con la situazione quotidiana. Io credo che la nostra, dico nostra perché mi sono arrabbiata anch'io durante i disservizi, la nostra arrabbiatura dipende anche dal fatto che niente va bene. La bravo, normalmente noi ci troviamo ad affrontare situazioni non così gravi, ma molto disagevoli per chi lavora, soprattutto in condizioni normali. Per cui uno, diciamo, ecco, Sabadì vuole rispondere all'ascoltatrice che dice: uno si sveglia, non va bene niente, non so, questa dice Cristina da Padova, e poi ci manca anche il blocco della neve sulle strade. Ecco, poi uno si lamenta. Questo è vero, ma non possiamo pensare che le cose miglioreranno, purtroppo, perché date le condizioni dell'economia globale e italiana non si vede come possano essere messi maggiori risorse nell'attuare servizi che funzionino meglio. Io resto alla situazione del Piemonte. In Piemonte ci sono moltissime strade provinciali dove quest'anno non è stato sparso il sale per mancanza di soldi, non per disattenzione o dimenticanza, ma soltanto perché le province non avevano soldi per fare questo. Allora, piace invece il pragmatismo di Gert, del nostro olandese, che l'avere un piano B è un'idea meravigliosa. Il piano B è un'idea meravigliosa, ma proprio questo io voglio semplicemente dire, che sarà necessaria una maggiore attenzione da parte di tutti noi a quello che facciamo. Cioè non possiamo pensare di partire appunto a Natale in condizioni atmosferiche di questo tipo e di arrivare puntuali, non è assolutamente possibile, e chi va in aeroporto lo dovrebbe sapere, metterlo in conto. Sentiamo Osvaldo Gammino oggi su Francoforte. Pare un disastro, brandine, tende, i clown per i bimbi, anche lì insomma una situazione nell'efficiente Germania. Mi scusi Milan, quello è il piano B. Quello è il piano B, che sì, è quello il piano B, cioè attrezzarsi. Io le parlo per esperienza, perché noi a Milano lo stiamo facendo con la SEA oramai da quasi 3 anni. Il piano B scatta quando fermi gli aerei perché vuoi la pulizia delle piste, vuoi il ritardo dei controlli, vuoi anche il ritardo delle compagnie aeree, perché una compagnia aerea che ha anche 100 aerei e li ha bloccati in 3 aeroporti o 4 in Europa, non è che ne abbia altri da far volare. Ebbene, quando abbiamo tutto ciò e cominciamo a dire ai passeggeri: signori, guardate che forse è il caso di andare a prendere un treno o prendetevi una macchina, come fa il passeggero olandese, ma se treni e macchine sono ferme perché le autostrade sono bloccate e i treni non vanno, ecco che tiriamo fuori le brandine di cui si è attrezzato benissimo sia gli aeroporti, quello è il piano B, Malpensa, no, e le coperte. Ha capito Rienzi, quello è il piano B, cioè se è tutto bloccato ci si arma di pazienza e... Gli italiani sono pazientissimi. Allora, noi non vogliamo, come dice Sabatini, arrivare puntuali a Natale, per carità, ma se arriviamo con 24 ore di ritardo, stando nel ghiaccio, senza nessuno che ci dà assistenza, vogliamo essere risarciti. Per cui io invito tutti ad andare sul sito del Codacons per chiedere il risarcimento. E poi non è vero che sono casi, c'è sempre una responsabilità. Mi rivolgo sempre all'amico di vice direttore della Stampa, perché se il venerdì, ed era venerdì il 17, succede quello che succede, è perché sono anni che sia noi, che devo dire anche le autostrade, chiedono al ministro dei trasporti di bloccare il traffico dei TIR alcune ore il venerdì pomeriggio, perché si somma a quello dei vacanzieri del fine settimana. Ebbene, questo abbiamo dovuto ottenere una sentenza del TAR 2 settimane fa, che ora metteremo in esecuzione, perché il ministro dei trasporti non molla, perché praticamente lì dentro ci sono tutti gli autotrasportatori, per carità, che devono lavorare, ma mi spiegate perché non si può trasportare la roba all'ora di notte? Perché non si può trasportare? Perché la domenica si può sospendere, non il venerdì pomeriggio? Ecco, c'è sempre una responsabilità umana e della politica e delle strutture amministrative. Allora, io qui mi devo fermare ringraziando il vice direttore della Stampa Vittorio Sabadin, Carlo Rienzi, presidente del Codacons, e Osvaldo Gammino, che rappresenta le compagnie aeree straniere agli aeroporti milanesi, Linate e Malpensa. Che dire, mi spiace, gli ascoltatori ce n'erano tanti, ma li recupereremo. Il 61% ancora votanti e votate dice: per il momento è inaccettabile questa situazione. Che dire, io saluto tutti, Alessandro Longoni in redazione. Domani siamo qua, anche Alessandro Longoni, a lavorare domani, anche qua alla vigilia di Natale. Anche Peter Bescapè in regia, al quale... No, lui non lavora. Allora gli auguri di un ascoltatore che ci scrive anche auguri all'Alpino. Andrà Peter, secondo voi, in vacanza, se non in montagna? L'Alpino, auguri, a domani 7:20, noi siamo qui.